Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti da Anna Marino. Oggi puntata speciale, dedicata a voci di piccola impresa, idee anticrisi. È la prima di alcune puntate speciali, dedicate proprio alle piccole e medie imprese che in fuga dalla crisi e totalmente immerse nell'economia della crisi trovano la via per uscirne, grazie a nuove rivoluzionarie idee. Gli imprenditori in persona ci raccontano come hanno fatto a pensare e realizzare le loro innovazioni, abbattendo ostacoli per far nascere nuove aziende e start-up, oppure per far ripartire settori tradizionali che annaspano. Troviamo innovazioni nate da intuizioni, dal territorio di appartenenza oppure in rete, senza sedi né limiti, che i protagonisti hanno costruito da soli o aiutati da incubatori, università, camere di commercio, business angels per svilupparle e tradurle in progetti e fatturato. Istruzioni per l'uso e suggerimenti e dritte da imitare per chi vuole sviluppare un proprio sogno di impresa affinché diventi realtà ma non sa da dove partire e come arrivarci. Iniziamo da un robot e da Arneis, www.arneis.com, un'impresa nata a Torino nel 2010, unica in Italia. Realizza, affitta o vende alle aziende questo simbolo del futuro per il marketing e la comunicazione, ma anche per fare da guida culturale agli eventi o per lo sport. L'idea è di due giovani imprenditori, Andrea Villa, che a noi racconta l'avventura, e Stefano Silvera. Viaggiano tra il capoluogo piemontese e Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. Contano su 16 collaboratori e sul Politecnico di Torino. La vostra azienda è davvero innovativa, nel senso che nasce da un'idea che ha trovato una nicchia senza precedenti in Italia, perché diciamo che il concetto della robotica nel nostro immaginario appartiene all'Asia, al Giappone e ad altri continenti, mentre in Italia sembra un inedito. Come è nata la vostra idea proprio in Italia? È nata dalla constatazione che proprio in Italia esiste un'eccellenza tecnologica nell'ambito della robotica. Io nel mestiere precedente mi occupavo di attrarre investimenti stranieri a Torino, quindi in Italia. Ero alla ricerca di settori di eccellenza per spiegare a investitori stranieri come mai venire in Italia, e ho scoperto che la robotica era una di queste eccellenze, che quindi nel mondo i robot si fanno in Giappone, in Corea, in Italia e in Germania, sono un po' i quattro posti. E poi, occupandomi di marketing e di comunicazione, ho scoperto una cosa strana, che il robot, in quanto tale, per il fatto stesso di essere un robot, una macchina che sembra avere vita, attira e incuriosisce le persone. Quanto tempo ci è voluto per passare dall'idea alla realizzazione dell'idea e quali sono state le prime attività che avete messo in piedi? L'idea ha richiesto una gestazione abbastanza lunga, per cui dalla prima lampadina che si è accesa è trascorso un anno e mezzo fino alla costituzione della società. Siamo ancora una startup. Qualche esempio che avete già realizzato, perché ovviamente siete in una fase, anche se di startup, molto operativa. La chiave del robot è l'interazione. Da italiani la prima interazione che ci è venuta in mente è stata quella del gioco del calcio, quindi abbiamo pensato a un robot che facesse giocare a calcio il pubblico, e quindi abbiamo un robot portiere, che è il robot più forte del mondo, diciamo, perché la macchina ha dei tempi di reazione che sono un decimo di quelli dell'uomo più veloce, per cui di fatto imbattibile. Chi compra questo robot, e soprattutto avete anche dei robot culturali, no? Comprano i nostri robot, o meglio affittano i nostri robot, grandi aziende che hanno la necessità di stabilire una comunicazione efficace con il pubblico, quindi con un gran numero di persone. E poi abbiamo avuto un'applicazione nell'ambito culturale, quindi abbiamo avuto la prima robot hostess d'Italia, che è stata la guida della mostra Stazione Futura per i 150 anni dell'Unità d'Italia a Torino nel 2011. So orientarmi, evitare gli ostacoli ed andare esattamente nel punto che mi è stato dato come indicazione. Se non ti ci metti proprio, riesco ad evitare di andare a sbattere anche contro di te. Posso farti vedere delle foto, dei filmati, se vuoi anche cantarti una canzone. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole d'amore. Come si chiamava? Beatrice, ha preso il nome dalla guida di Dante, in quanto ci sembrava caratterizzante del suo ruolo. Ciao, sono Beatrice, la guida interattiva che Arneis Interactive Robotics ha sviluppato per Stazione Futuro. La seconda fase dello sviluppo, insomma, dell'idea ha avuto magari delle cose che hanno aiutato e degli elementi invece che sono stati degli ostacoli. Quali sono stati gli uni e gli altri? Sicuramente è straordinario l'entusiasmo che l'idea ha generato non soltanto in noi, perché comunque l'idea è nostra, ma in chi collabora con noi in vari modi. Quindi l'aspetto emotivo, anche se parliamo di macchine, non è una fredda tecnologia. La difficoltà è quella che avevamo studiato sui libri di scuola, di promuovere un'innovazione e quindi la resistenza ad adottare un'innovazione. Alle volte ci sentiamo come a dover spiegare a chi ha un bel mangianastri che potrebbe ascoltare la musica con un iPod. Investimenti da chi sono arrivati? Fondamentalmente dai soci. Io e il mio socio abbiamo investito le nostre liquidazioni dei lavori precedenti in questa attività per comprare la tecnologia e realizzare il primo robot. Qual è stato il giorno dell'idea? L'idea è scaturita proprio dalla prossimità del Politecnico di Torino. Un giorno, ricordo, sono venuti a trovarmi un docente del Politecnico e un suo amico, un imprenditore del settore robotico qui di Torino. E seguendo loro, loro volevano che investissi come agenzia in un loro progetto che era il campionato di calcio per la RoboCup. Seguendo queste due persone, conoscendo un po' di più il settore, sono finito per esempio allo SMAU di Milano e mi sono reso conto che in una fiera dove ci sono musica, videogiochi, ricchi premi e cotillon, il robottino piccolo, un po' sgangherato del Politecnico di Torino attirava più persone che tutto il resto, tanto che dagli stand vicini, Samsung, Nokia, chi era lo SMAU, ci chiedevano di spostare questo robottino, che era un ammasso di ferraglia con dei fili elettrici a vista, nei loro stand perché incuriosiva e attirava il pubblico, che era quello che loro interessava. In fondo è anche un'immagine da cartoni animati dell'infanzia, insomma, di molti di noi. E anche di noi due, anche di Stefano e di me, che abbiamo fondato Arnaze con un'idea un po' da cartoni animati e una speranza, che è quella di comprarci la squadra di calcio di Torino, quindi il Toro, quando Arnaze non sarà più una startup e avrà generato abbastanza fatturato, per risollevare questa squadra che ha una storia gloriosa e cui onore ci piacerebbe riportarla. Vuole insegnare come fare innovazione in 24 ore e realizzarla azienda per azienda. Umania. www.umania.it, impresa nata nell'incubatore della Camera di Commercio di Bergamo, che oggi ha sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, appunto di Bergamo, www.chilometrorosso.com, costituita da ergonomi, designer, esperti di human factor e usability, tra questi Angelo Rondi, che spiega che cosa c'è dietro il nome che hanno scelto. Dietro il nome Umania c'è la visione dei tre soci fondatori, che sono tre ergonomi europei certificati e che basano le proprie competenze sullo human factor, quindi sul fattore umano. Nella filosofia nostra l'idea è stata quella di creare una società che mettesse l'essere umano, inteso come consumatore, come cliente, al centro di tutti i processi di attivi. E quindi il designer è un elemento, insieme a tutta la squadra, per creare la soluzione. Tutto ruota intorno alle figure del designer, tutto ruota intorno al design, ma soprattutto ci sono, diciamo, non solo risorse umane, ma anche leve pratiche, soldi, reti, network, che possono dare una mano all'imprenditore. Voi chi e che cosa avete incontrato? Noi siamo una realtà abbastanza anomala, nel senso che innanzitutto noi partiamo e nasciamo all'interno di un incubatore di impresa, che è l'incubatore di impresa della Camera di Commercio di Bergamo, all'interno del quale siamo stati per 2 anni, e qui da subito ci siamo trovati a confrontarci e a collaborare con altre realtà giovani appena aperte, e quindi da subito abbiamo fatto squadra, abbiamo iniziato subito a aprirci anche a competenze che erano lontane dal nostro mondo. Subito dopo circa 2 anni abbiamo deciso che questa strada è la strada del network, del networking è vincente, e abbiamo deciso di diventare partner di Chilometro Rosso. Loro sono stati coinvolti dall'idea abbastanza innovativa e dal fatto che tutto si basasse su network e anche sulla contaminazione delle competenze, che è un po' anche la filosofia che muove il Parco Scientifico e Tecnologico di Chilometro Rosso, e quindi ha accettato la nostra presenza all'interno del parco. Questo è stato un acceleratore che vi ha dato quali strumenti? Il parco è stato un vero e proprio acceleratore, perché innanzitutto noi siamo l'azienda più giovane e più piccola che c'è all'interno del parco, e forse siamo per questo anche un po' la scheggia vagante che c'è all'interno di questa realtà, e subito ci hanno dato, secondo me, tre valori aggiunti notevoli. Il primo è che ci hanno permesso di consolidare il nostro business, essendo anche giovani, lavorando con le realtà che ci sono all'interno del parco, che sono realtà anche mature e di una certa caratura, noi possiamo collaborare tutti i giorni con professionisti che ci guidano o che comunque che ci condizionano anche le nostre scelte. Questo è anche stato un ostacolo, il fatto, diciamo, di essere giovani e comunque di avere un'idea da realizzare senza ancora l'esperienza, quindi questo costituisce comunque un freno ancora nel nostro paese o in generale? Costituisce un freno laddove ti proponi sul mercato con idee innovative e il tuo interlocutore viene spaventato da questo, perché oggi il nuovo purtroppo spaventa ancora troppo. Quindi, se lo abbiniamo poi a una situazione di realtà giovane, al nuovo ci dobbiamo anche aggiungere la parola che mi devo fidare. Quindi un cliente si deve fidare di Umania, che offre servizi nuovi e in più una realtà giovane. Quindi perché un cliente dovrebbe fidarsi di Umania? E la crisi come ha impattato sulle vostre giovani spalle? La crisi per noi ha impattato come un ulteriore acceleratore, nel senso che ci siamo dovuti sbarfare da subito i muscoli e quindi adesso abbiamo le spalle più larghe di sicuro di 4 anni fa. E la crisi ha impattato sul fatto che fortunatamente oggi le aziende sono più disposte ad ascoltare. Quale età avevate quando avete iniziato? Quando abbiamo iniziato avevamo 33 anni. Finora in questi anni di attività, in quanti anni, quanti prodotti avete pensato? Più o meno 30 prodotti in 3 anni e mezzo. Quindi è una buona media, diciamo, di pensieri e di innovazioni. Sì, oggi comunque ci tengo a sottolineare anche questo, che il prodotto oggi non è solo il prodotto poi fisico, ma diventa anche oggi, acquista molto valore, se si legge in una logica anche di brevetti, il prodotto idea. Vi sentite anche di consigliare, per esempio, il chilometro rosso o comunque la Camera di Commercio come esperienze per le aziende che vogliono intraprendere? Sicuramente, anzi io consiglio soprattutto ai giovani imprenditori, perché crescere e mettersi all'interno di certi contenitori, certi contesti, aiuta uno a contaminarsi a vicenda e aiuta anche perché ci sono momenti magari di difficoltà, in quei momenti vedere che c'è qualcun altro che invece sta avendo successo ti può stimolare e incoraggiare. E poi può aprire anche molte porte. Sicuramente oggi essere in più di uno e collaborare amplifica notevolmente le opportunità. È tutto per questa puntata speciale dedicata a voci di piccola impresa, idee anticrisi. Ritorneremo presto con altre storie. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.